Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1864, il Parlamento vota Firenze e la nuova capitale. Onorevoli colleghi, per favore, silenzio! Per Torino è un addio amaro. La discussione c'è stata, ma il voto del Parlamento era scontato ed è andata come doveva andare. Dall'anno prossimo la città di Savoia non sarà più la capitale del regno. Tocca a Firenze, dove i preparativi sono già iniziati. In città, dopo le stragi di settembre, le proteste sono proseguite. Il nuovo governo, la Marmora con Lanza agli interni, ha gestito l'ordine pubblico con più prudenza, ma senza smuoversi di un millimetro. D'altronde non poteva andare altrimenti, visto che persino il re Vittorio Emanuele ha dovuto ingoiare un boccone che considera amarissimo, anche perché si allontana dalla sua città natale, perché resta fieramente torinese e piemontese. Per Roma avrebbe accettato il sacrificio, per Firenze fatica assai di più. Si consolerà cacciando a San Rossore. Silenzio! Silenzio! Il Parlamento ha registrato le tensioni, le polemiche roventi, le accuse che risuonano sui giornali, la Gazzetta del Popolo in testa, nonostante la censura governativa. Per la maggioranza liberale che ha appoggiato la convenzione ha parlato tra gli altri l'onorevole Carlo Boncompagni, piemontese torinese amico di Cesare Balbo e di Camillo Cavour. Si è detto favorevole ma ha esposto anche tante critiche alla convenzione di settembre. Ha ricordato che Cavour era contrario a rinunciare a Torino se non per Roma, ha sottolineato che l'accordo con la Francia non dà alcuna garanzia che Roma possa essere capitale in futuro. Ne offre anzi alla Francia che l'Italia abbia in Firenze la sua capitale definitiva. Più o meno gli stessi concetti proposti da Crispi, leader della sinistra, che ha votato no. Il trasferimento della capitale a Firenze ha attaccato e la garanzia alla Francia che a Roma resti il Papa. Poi ha aggiunto che per arrivare alla città eterna non c'è che la via della rivoluzione. Insomma, tante voci contrarie, ma alla fine la maggioranza è stata ampia per il sì e per Torino è suonato come un de profundis. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.